Infatti, le opere eseguite dai maestri sardi del passato assomigliano e si confondono con quelle eseguite da altri maestri del continente, eseguite in un passato ancora più remoto, salvo che nelle prime, in quelle cioè eseguite dai maestri sardi, spesso vengono rappresentati avvenimenti che riguardano la nostra storia e il nostro paesaggio. Non c'è il tanto, però, per dire che esse parlano in sardo. Sarebbe come dire che un cuoco americano fa le cebadas in America, con pecorino americano, se c'è, con miele amaro americano, se c'è, e poi dice che quelle cebadas, in quanto le ha fatte lui in America, con prodotti americani, parlano americano.